Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un carissimo saluto. Siamo al nostro appuntamento mensile nella puntata di questa trasmissione, il cui tema è La tua parola mi fa vivere. Proprio per sentire la forza viva, vitale della parola nella nostra vita. L'obiettivo è quello di non arricchire solo la nostra testa con qualche conoscenza, qualche concetto in più, ma cercare di permettere alla parola di Dio di plasmare la nostra vita, di accompagnare il nostro percorso di fede. Quindi chiediamo fin dall'inizio non solo l'intercessione di Maria, ma anche i doni dello Spirito Santo, perché doni a chi parla la giusta sapienza e a tutti noi che siamo tutti ascoltatori della parola, quella docilità che significa anche proprio capacità di lasciarci plasmare dalla parola. Ecco, nel nostro percorso sugli Atti degli Apostoli siamo arrivati al capitolo 17. Nell'ultima puntata, la volta scorsa, ci eravamo soffermati con l'esperienza di Paolo a Tessalonica e gli Atti degli Apostoli ci dicono che quando Paolo lascia la città di Tessalonica si dirige verso la città di Atene. Siamo in un contesto in cui praticamente possiamo dire emerge in modo forte e chiaro l'universalismo dell'Apostolo Paolo. Mi sembra bello far precedere la riflessione di questa sera da un passaggio della prima lettera ai Corinzi, dove in modo molto chiaro emerge questa apertura dell'Apostolo. Scrive Paolo: «Pur essendo libero da tutti, mi son fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi son fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei. Con coloro che sono sotto la legge sono diventato come uno che è sotto la legge, pur non essendo sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Con coloro che non hanno legge sono diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. Mi son fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi son fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il Vangelo». Ecco, già questo brano della prima lettera ai Corinzi ci apre al tema fondamentale che emerge dall'incontro tra Paolo e la città di Atene, che è quello dell'universalismo dell'Apostolo. Dove nasce l'universalismo dell'Apostolo Paolo? Ci sono alcuni studiosi che ritengono che l'universalismo di Paolo nasca, sia già impostato, possiamo dire, nella sua città d'origine, nella città di Tarso. Questo può essere vero, ma direi, se fosse vero, è vero solo in parte, perché se non si può negare che Tarso era una città cosmopolita dove abitavano persone con estrazioni religiose anche molto diverse, è anche vero che le comunità giudaiche presenti in Tarso erano comunità fortemente radicate nella loro identità, quindi non tanto inclini, se vogliamo, al dialogo, cioè quando una comunità è una minoranza, è molto più attaccata alla propria identità che non in un ambiente dove magari quella comunità religiosa è di maggioranza. È vero che Paolo fin dall'inizio è allenato ad un'apertura agli altri, però se noi guardiamo il percorso della sua vita, sembra che a Tarso sia avvenuto l'esatto contrario, cioè Paolo è talmente radicato nella sua identità che sceglie come via per sé quella farisaica, quella dell'approfondimento farisaico, per cui si dirigerà a Gerusalemme, si metterà alla scuola di Gamaliele per entrare ancora più in profondità nella ricchezza del giudaismo. Quindi quello che è l'universalismo di Paolo, anche se può essere stato stimolato da un ambiente cosmopolita come quello di Tarso, non nasce a Tarso, nasce in un altro contesto. Oggi chi di voi ha avuto la fortuna di visitare la Turchia e ha visitato la città di Tarso ricorderà che della Tarso di Paolo sono rimaste poche cose. È rimasto un pozzo, che in genere viene presentato come il pozzo a cui tutta la gente della città tingeva l'acqua, quindi lo stesso Paolo, i suoi familiari, la porta che introduce nella città è una via colonnata, una strada colonnata. Ecco, il pozzo, una porta e la strada. Potrebbero essere presi come emblemi, come simboli, se vogliamo, di quello che è l'universalismo dell'Apostolo. Il pozzo richiama qualcosa che attingiamo dal passato, quindi per Paolo il pozzo è la ricchezza della sua tradizione ebraica. La tradizione ebraica ha insegnato a Paolo che il dono di Dio è sempre un dono gratuito. Questa gratuità lui la sentirà forte. C'è un midrash molto bello, no? In cui ci si chiede come mai i 10 comandamenti non sono stati dati all'inizio del Pentateuco, ma solo nel libro dell'Esodo, non ad esempio nel libro della Genesi, perché all'uomo, una volta che è stato creato, non è stato dato subito i 10 comandamenti, non è stata data subito la Torah. E i rabbini rispondono così: si può rispondere con una parabola. Un re entrò in una provincia e disse al popolo: posso regnare su di voi? Ma il popolo gli disse: hai fatto qualcosa di buono per noi perché tu debba regnare su di noi? Quel re allora costruì per loro le mura della città, fece allestire il rifornimento d'acqua, si mise a combattere per quel popolo e poi si ripresentò dicendo: posso regnare su di voi? Il popolo gli rispose: adesso sì. Così è Dio. Prima portò gli israeliti fuori dall'Egitto, prima divise per loro il mare, prima mandò loro la manna, fece scaturire per loro l'acqua nel deserto, portò loro le quaglie, combatté per loro la battaglia con Amalek e solo dopo disse: sarò il vostro re. E Israele disse: sì, adesso sì. Ecco, vedete, i doni di Dio precedono la richiesta di obbedienza di Dio stesso, i doni di Dio precedono il comandamento. Ecco, l'universalismo di Paolo nasce nel momento in cui Paolo sperimenta la gratuità di Dio. E noi sappiamo dove Paolo sperimenta la gratuità di Dio. Fin dal seno di mia madre, dice Paolo, ma soprattutto nella grande esperienza di Damasco, nella grande rivelazione di Damasco. Quando Paolo entra in questo orizzonte, sperimenta la gratuità di Dio. E allora sente il bisogno di doverlo comunicare agli altri. Secondo quel principio, l'amore di Cristo mi spinge, che troviamo appunto una frase che troviamo nel suo epistolario. Bene, nel percorso, nei viaggi dell'Apostolo, ecco che questo universalismo sperimentato da Paolo attraverso la gratuità di Dio si trasforma in contatto con l'altro. E quest'oggi la nostra lettura continua degli Atti degli Apostoli ci porta nella cornice di Atene. Ascoltiamo il testo dagli Atti degli Apostoli. Quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Mentre Paolo li attendeva ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli. Frattanto, nella sinagoga discuteva con i giudei e con i pagani credenti in Dio, e ogni giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e alcuni dicevano: che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano? Altri: sembra essere uno che annuncia divinità straniere, poiché annunciava Gesù e la risurrezione. Lo presero allora con sé, lo condussero all'Areopago e dissero: possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? Cose strane tu ci metti negli orecchi, desideriamo perciò sapere di che si tratta. Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità. Ecco, accanto al pozzo, dicevamo che nella città di Tarso un altro luogo che si vede è la porta. Ecco, anche la porta ci aiuta a capire lo stile dell'universalismo di Paolo. Lo stile dell'universalismo di Paolo è quello di una porta affacciata su un mondo altro. E questi versetti che abbiamo letto nel capitolo 17, dal versetto 15 al versetto 21, quindi chi di voi ha una Bibbia tra le mani in questo momento, invitata proprio ad aprirla al capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, versetto 15-21, ecco, questi versetti ci aiutano a capire come Paolo abbia proprio lo stile del confronto con l'altro. Un confronto che prima di tutto passa da un contatto diretto con l'altro, cercando là dove questi è, senza temere di misurarsi con la sua diversità, senza alcun timore di ascoltare, di discutere, di affrontare l'altro. Lui si reca ad Atene, si ferma, ascolta, osserva e notiamo come Paolo perlustri tutti gli ambiti della città, perché ci dice: frattanto nella sinagoga discuteva con i giudei, quindi parte sempre dalla sinagoga, dal suo contesto, il contesto ebraico, e con i pagani credenti in Dio, sono i timorati di Dio, quindi da un lato i giudei, dall'altro i timorati di Dio, poi esce ogni giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava. Quindi dalla sinagoga passa all'agorà e l'agorà è il luogo dove passa la gente comune, quindi lì con quelli che incontrava. Poi sempre lì con certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, quindi oltre al popolo comune affronta anche quelli che sono più addentro al mondo, come dire, culturale, quelli che sono più formati, plasmati dalla cultura, dibatte con loro, discute con loro e sceglie due filosofie, l'epicureismo e lo stoicismo, che hanno molto a che vedere con la visione dell'uomo e la visione di Dio. Quindi notiamo questa capacità di entrare in dialogo con l'altro e poi da qui passerà all'Areopago, cioè al luogo dell'elite. È la prima volta che Paolo sosta nell'agorà e ciò che fa audience nell'agorà prima o poi finisce nell'Areopago, che è quello, l'ambito dell'elite, dell'aristocrazia, e anche lì Paolo si misura con loro senza timore. Quindi quello che è il mondo variopinto dell'Atene del primo secolo è un mondo abitato da Paolo. Paolo non ha timore di entrare in gioco, di mettersi in gioco con le diverse sfumature del mondo che si presenta davanti a lui. Come si mette in gioco? Si mette in gioco, oltre che con il contatto diretto con gli altri, con un grande rispetto della cultura. Perché se Paolo da un lato freme al vedere la città piena di idoli, noteremo poi nel discorso che Paolo tiene a coloro che abitano questa città, che il discorso non è un discorso antitetico, cioè Paolo parte dal bene che c'è nella cultura per condurre pian piano questi semi di bene alla scuola di Cristo. È la stessa logica che troviamo in alcune lettere. Prendiamo ad esempio la lettera ai Romani. Nella lettera ai Romani, al capitolo 8, Paolo segnala come luogo dell'annuncio del mistero pasquale niente meno che la creazione stessa. La creazione stessa fa udire il suo gemito, il grido interiore e invita all'attesa di una rivelazione più grande che è quella del Cristo. Quindi Paolo, come dire, prepara il mondo pagano all'accoglienza del Vangelo, aiutandolo a cogliere quei semi di verità che ci sono al suo interno, aiutando a partire da questa religiosità dissipata che si manifesta nella molteplicità dei templi e degli idoli, che ha bisogno di un'unità al suo interno. Quindi c'è da parte sua la caratteristica di entrare in contatto diretto con gli altri, di rispettare la cultura e di fare della fede non un rito, ma un principio attivo, dinamico, critico dello stile di vita della persona. Ecco, a me piace molto il concetto della fede come principio attivo. I principi attivi sono quelli che rendono le medicine efficaci, no? Ecco, il principio attivo della fede è quella fede che suscita un cambiamento in colui che la vive. E Paolo, attraverso il suo annuncio, parte dalla fede dell'ascoltatore, parte dalla ricerca dell'ascoltatore e trasforma questa ricerca in principio attivo. Ecco, questa è la porta da cui si affaccia l'universalismo di Paolo. Quindi lasciamo adesso un breve stacco musicale in modo che si possa rileggere questi versetti dal versetto 15 a 21, prima poi di ascoltare, di sentire cosa dice Paolo nel discorso che rivolge a coloro che lo ascoltano, all'Areopago di Atene. Quindi un Paolo che entra in contatto con tutti, ebrei, timorati di Dio, pagani, filosofi, gente comune, un Paolo che ha rispetto della cultura, trasforma la fede in un principio attivo. Lasciamo un breve stacco musicale e poi continuiamo con il racconto degli Atti degli Apostoli. Allora, stavamo dicendo che nel contesto di Atene emerge l'universalismo di Paolo, una disposizione che l'Apostolo certamente apprende in qualche modo a Tarso, ma che approfondisce soprattutto attraverso la rivelazione di Dio sulla via di Damasco. Questa gratuità di Dio nei suoi confronti lo spinge ad annunciare il Vangelo agli altri. Ecco, e questo annuncio, abbiamo preso spunto dalle tre cose che si visitano normalmente quando si passa a Tarso, il pozzo, la porta e la strada, per farne un po' dei luoghi simbolici che ci aiutano a tenere presente le caratteristiche dell'universalismo di Paolo. Il pozzo ci ricorda che attinge dalla misericordia di Dio, dalla grazia di Dio. La porta ci ricorda il suo confronto con il mondo esterno, con il mondo altro. La strada, il terzo elemento, ci mostra questo universalismo fatto di cammino. Paolo è un apostolo costantemente in cammino. Pensate, gli studiosi ritengono che in tutta la sua vita Paolo ha percorso almeno 15.000 chilometri, niente meno che 15.000 chilometri. E Atene è una delle tappe significative su cui stiamo sostando questa sera. Ad Atene si intrecciano l'esperienza della grazia di Paolo, che è quella che attinge dal pozzo, dicevamo, con il terreno del mondo, nella sua realtà più variopinta. Ad Atene Paolo incontra i giudei, timorati di Dio, incontra i pagani sotto la versione della gente semplice, ma anche sotto la versione dei filosofi epicurei e stoici, e incontra pure l'aristocrazia nell'Areopago. Bene, in questo mondo variegato la grazia si impassa con l'umanità. Ecco perché insisto tanto sul tema della grazia, perché è attorno all'esperienza della misericordia di Dio Paolo costruisce la sua personalità. Pensate che in tutto il Nuovo Testamento il tema della grazia ricorre 154 volte in tutto il Nuovo Testamento. Bene, 100 di queste, quindi due terzi, si ritrovano nelle 13 lettere dell'Apostolo. Quindi vi fa capire questo l'enorme importanza che il tema ha per Paolo. Anche il concetto di mondo è importante. E qui dobbiamo tenere presente che il mondo, come lo vede Paolo, non è il mondo, il cosmos dei Vangeli, soprattutto del quarto Vangelo. Per Giovanni il mondo è qualcosa di negativo, è qualcosa dove si gioca il contrasto tra la luce e le tenebre, e il mondo rappresenta più quella realtà che rifiuta la luce, più che quindi il luogo delle tenebre, più che uno spazio positivo. Per Paolo invece il mondo è luogo potenziale di accoglienza dell'annuncio, è il luogo dell'incarnazione di Dio, è lo spazio che non deve essere trascurato. E proprio per questo Paolo non si accontenterà mai di percorrere il mondo. Lui ha sempre bisogno di andare oltre, di muoversi. Non vede il mondo come una realtà chiusa da possedere o consegnare. È una realtà aperta nella quale seminare il seme del Vangelo e permettere a questo seme di produrre i suoi frutti. Bene, nel contesto di Atene, condotto nell'Areopago, Paolo tiene il grande discorso che troviamo nei versetti da 22 a 31 del capitolo 17. Leggiamolo. Allora Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio, semmai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare la divinità che la divinità sia simile all'oro, all'argento o alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina a tutti gli uomini che dovunque si convertino, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Allora, notiamo subito una cosa. Paolo, nell'impostare questo discorso, attinge a tanti elementi della cultura pagana. Ad esempio, c'è una triade, quella di vivere, muovere, esistere, e in lui noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, che era tipica delle filosofie panteiste, che vedevano Dio presente in tutto. C'è una citazione di un poeta, del poeta Arato, dove lui dice: perché di lui anche noi siamo stirpe. Ci sono alcuni concetti stoici su Dio che non ha bisogno di niente e che pur si prende cura del mondo. C'è l'invito a cercare il logos divino, come pure il concetto della parentela tra l'uomo e la divinità. Sono tutti elementi che attingono dall'uditorio e dalle credenze dell'uditorio, e teniamo presente un uditorio aristocratico, che serve per creare un punto di aggancio con loro. Il discorso, tra l'altro, è ben articolato, c'è un'introduzione che ha come elemento base la frase colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Quindi c'è un'introduzione che parte dal Dio ignoto a io vi annuncio quello che voi non conoscete, quindi attira l'attenzione dell'uditorio. C'è l'argomentazione dove riprende tutte queste cose ma mette i puntini sulle i, e poi c'è la conclusione dove Paolo tira le fila puntando sulla risurrezione dei morti. Vediamo questi aspetti. Prima di tutto l'aspetto dell'introduzione. Paolo parte da un'osservazione molto semplice, passando tra i vari altari, i vari templi, nota uno dedicato al Dio ignoto. L'archeologia non ci ha restituito niente di questo, cioè non è mai stato trovato ad Atene un altare con scritto al Dio ignoto. Presumibilmente però la cosa è realistica, è concreta, è vera, nel senso che nelle città pagane si riteneva importante assicurare a ogni divinità un proprio altare, perché se una divinità veniva come dire, trascurata, questa divinità poteva in qualche modo vendicarsi con la città, causando cataclismi o comunque fenomeni non certo positivi alla città. Allora ad Atene, per non dimenticare nessuno, si era aggiunto un altare al Dio sconosciuto, in modo che se ci fosse stato un Dio non ben rappresentato, ecco, in quell'altare era rappresentato e la città era in qualche modo salva. Ecco, Paolo prende spunto di questo per dire: quello che voi non conoscete, ecco, io ve lo annuncio. Introduce, si serve di questo spiraglio aperto che comunque dice da un lato l'ingenuità degli ateniesi, ma dall'altro anche una certa apertura, si inserisce da questa fessura per annunciare la fede nel Vangelo. Da lì poi c'è l'argomentazione, cioè da questo punto c'è l'argomentazione su Dio, e l'argomentazione su Dio mette dei puntini sulle i, cioè sottolinea alcuni no, cioè alcuni principi che, partendo dalle filosofie del tempo, permettono a Paolo di sottolineare quello che Dio non è. Prima cosa, Dio non abita in edifici costruiti dall'uomo, e con questo relativizza tutti i templi di Atene. Tra l'altro era proprio un punto sottolineato dalle filosofie, soprattutto dalla filosofia stoica, no? Dio abita nella realtà, nel cosmo, in ogni uomo, in ogni essere. Le filosofie panteiste sottolineavano questo, quindi pensare di contenerlo in un tempio è assurdo, e sicuramente su questo Paolo ottiene il plauso dei suoi uditori, di coloro che lo ascoltano. Seconda cosa, Dio che da tutto non ha esigenze, dice Paolo, quindi non servono tutti i sacrifici che vengono fatti nei templi, Dio non ne ha bisogno, non ne ha bisogno. E anche su questa cosa certamente Paolo incontra il plauso dei suoi. Poi terzo elemento, Dio resta un Dio misterioso, un Dio nascosto, l'uomo non lo può possedere e proprio per questo non lo può rappresentare. Rappresentare Dio significa incorniciarlo, mettergli un quadro, bloccarlo in un'immagine, non permettendo a Dio di essere quotidianamente altro. Ecco allora, su quell'aspetto Paolo gioca soprattutto sul terreno della ricerca, che era un tema molto caro alla filosofia greca, dicendo: guardate, noi lo cerchiamo andando a testoni. Tuttavia, in questa ricerca andando a tentoni è possibile cogliere il volto di Dio. Quindi Paolo parte dalle filosofie del tempo, attingendo a queste filosofie mette in evidenza pian piano i tratti del volto di Dio, per poi arrivare al volto per eccellenza nell'argomentazione finale, quando dice: ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano. È qui che il punto di Paolo raggiunge il suo elemento più critico, perché finché si tratta di parlare di qualche divinità, va bene, finché si tratta di delineare il volto di Dio, va ancora bene, magari anche con qualche punta di contrasto, ora con l'uno o con l'altro, viene accettato. Ma quando si tratta di mettere in discussione il proprio stile di vita, allora lì casca l'asino, perché Paolo dice chiaramente, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha disegnato, dando a tutti prova certa, con risuscitarlo dai morti. Ecco allora i due elementi attorno alla quale tira l'argomentazione di Paolo, cioè tira le sue conclusioni. Nel portare l'annuncio a questo contesto pagano, Paolo chiede due atteggiamenti di disponibilità. Il primo è quello a lasciarsi convertire, cioè a cambiare orizzonte di pensiero, di vita, di ragionamento. E il secondo è fissare l'attenzione su un uomo inviato da Dio, ovviamente è Gesù Cristo, che è risuscitato dai morti, il che sarebbe la prova per eccellenza del Vangelo di Paolo. Tra l'altro, quando Paolo comincia ad annunciare nell'Agorà, lo prendono in giro, lo chiamano ciarlatano, ma di che cosa parla? Parla di una nuova coppia di divinità, perché Paolo parlava di Gesù e della risurrezione. E gli ascoltatori, che lì erano ancora gente semplice, pensavano nell'agorà che risurrezione fosse la moglie di Gesù, tanto vero che in greco risurrezione è anastasis, quindi pensavano alla coppia Gesù-Anastasia, e quindi dicono parla di divinità che noi non conosciamo. Ora invece, nel discorso con l'elite, Paolo chiarisce molto bene cosa intende quando parla della risurrezione. Parla della risurrezione di quest'uomo che il Signore ha mandato, ma per accogliere il quale è necessario un cambiamento di vita. Notiamo quindi che l'approccio universale di Paolo è un approccio molto, molto attento, cioè grande capacità di ascolto della cultura, grande capacità di riconoscere i semi dei beni della cultura, grande capacità però di mettere anche i puntini sulle i, senza lasciarsi annacquare dal contesto in cui lui è. Da parte sua c'è una evangelizzazione della cultura, più che una inculturazione del Vangelo. È un approccio diverso. Paolo è ben cosciente del tesoro che lui porta e dell'esperienza che vuole comunicare a quanti ascoltano. Ora, prima di sostare un attimo sui frutti di questo incontro con la città di Atene, lascerei ancora un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi può rileggere questi versetti. Sono i versetti quindi del discorso di Paolo, dal versetto 22 fino al versetto 31, dove questo discorso culmina nell'annuncio della risurrezione. Quindi un breve stacco musicale, poi leggeremo gli ultimi tre versetti che ci dicono come tutto va a finire. Allora, dopo aver ascoltato il discorso di Paolo ad Atene, vediamo come questo incontro con la cultura pagana termina, come va questa esperienza di annuncio. Luca ce lo narra nei versetti dal 32 al 34 del capitolo 17. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano. Altri dicevano, su questo ti sentiremo un'altra volta. Così Paolo si allontanò da loro. Ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti, tra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Allora il discorso si chiude in una maniera, si era chiuso in una maniera un po' brusca, sembra quasi che nella narrazione si voglia far intendere che Paolo viene stoppato dai suoi uditori appena pronuncia la parola risurrezione. Come mai questo annuncio di Paolo non ha fortuna? Non ha fortuna sicuramente a motivo proprio delle filosofie a cui lui si rivolge. Perché in queste filosofie il corpo, la corporeità, era sinonimo di tomba, cioè il corpo era ciò che teneva prigioniera l'anima. La morte era visto come il momento per eccellenza in cui la persona si liberava dalla pesantezza del corpo per tornare alla pienezza di sé. Ora, il fatto che Paolo annunci la risurrezione di un uomo è come, per queste filosofie, riproporre la prigionia del corpo a quell'anima, e quindi non sono disponibili ad ascoltare. Su questo punto due sono le reazioni: da un lato c'è chi lo deride, dall'altro gli dice su questo ci sentiremo un'altra volta, nel senso ironico del termine, cioè non farti più vedere. Alla fine, in altre parole, la reazione del mondo pagano non è diversa dalla reazione di Israele. Come i giudei, anche i greci rifiutano inizialmente l'annuncio del Vangelo e non sono disponibili a entrare in quella logica di conversione che Paolo richiede. Per non lasciare tutto in una cornice bruciante di fallimento, Luca sembra quasi dire sì, però non è proprio tutto andato così male. In fondo qualcuno ha aderito, tra questi Dionigi, membro autorevole dell'Areopago, e oltre a questo una donna di nome Damaris. È interessante, Paolo nei contesti pagani spesso tiene sempre a sottolineare la conversione delle donne insieme a quella degli uomini, c'è sempre una visione della coppia importante, e altri con loro. Sta di fatto però che, diversamente da altre parti, Paolo non si ferma ad Atene, perché ci viene detto che dopo questi fatti lascia Atene e si dirige altrove, si dirige a Corinto. E Atene non è nemmeno una città su cui Paolo investe nella formazione. O Dionigi e Damaris lo seguono, ma non abbiamo comunque notizia di un Paolo che manda dei discepoli ad Atene per fortificare il piccolo gruppo che lì si è stabilito, o una notizia che Paolo ripassi da lì. In altre comunità era andata molto diversamente, cioè, per dire, a Tessalonica sì, Paolo aveva ricevuto anche molta ostilità, tanto vero che aveva dovuto scappare, si era dovuto ritirare, battere in ritirata, però ha assicurato non solo delle lettere, ha assicurato anche la presenza di alcuni discepoli che in qualche modo assicurassero la continua formazione di coloro che lì avevano creduto. Bene, in questa pagina che ci presenta proprio l'incontro tra Paolo ed Atene, nel capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, quale immagine di Paolo emerge? E soprattutto, cosa questa immagine di Paolo può dire alla nostra fede? La pagina di Paolo che emerge mi sembra sia quella dell'annunciatore per eccellenza. C'è un termine in greco, keris, che indica il banditore, l'araldo del Vangelo. Qui Paolo davvero è un araldo del Vangelo, è il tipico araldo imperiale, colui che andava nelle piazze pubbliche, nelle agorà, e al suono del tamburo, della tromba, declamava un editto fondamentale che tutti dovevano ascoltare e poi mettere in atto. Ecco, l'editto che Paolo declama come keris, come banditore, come araldo, è l'editto della risurrezione di Gesù. Quella risurrezione che viene respinta però dall'elite, dall'aristocrazia. Che immagine di Paolo emerge oltre a quella dell'araldo? Emerge l'immagine di un apostolo fallito, di un apostolo che non ottiene i suoi risultati, ma che, grazie al fallimento che vive, capirà una cosa fondamentale. Questo emerge tra le righe nell'epistolario paolino, nelle lettere di Paolo, cioè Paolo capisce di aver fallito non tanto nella strategia che ha utilizzato, ma nel modo in cui ha portato avanti questa strategia. Lui sì ha parlato della risurrezione, ma ha tenuto nascosto, probabilmente per timore di essere rifiutato, il mistero della debolezza di Cristo, cioè il mistero della passione e morte. Non ha portato l'annuncio completo. Nel contesto di Corinto lui dirà: io ho imparato dai miei fallimenti che è nella debolezza che si manifesta la forza di Dio, e quindi non trovo più in nient'altro vanto se non nella croce di Cristo. quello che sembra Paolo impari ad Atene sia proprio questo, cioè il non relativizzare mai la debolezza dell'annuncio cristiano. E là dove si parla di passione, morte e di risurrezione, lì nell'unità, nell'unione tra la debolezza e la forza emerge la ricchezza dell'annuncio. La risurrezione non va mai isolata come cosa a sé, come invece ha fatto ad Atene, ma va tenuta insieme agli altri due elementi. Quale immagine di Paolo ancora emerge ad Atene? Emerge l'immagine di un Paolo capace di varcare la porta del suo mondo. Mentre i dodici restano per il momento chiusi nel mondo della Palestina del loro tempo, Paolo è quello del mare aperto, quel mare nostrum su cui si affacciavano tutti gli orizzonti dell'impero romano nella loro diversità. Paolo non ha timore di entrare in contatto con il mondo altro, con la diversità dei popoli che si affacciano sull'impero romano, rispettandone da un lato la cultura, ma facendo anche di questa cultura il terreno di partenza per annunciare la forza del Vangelo. Tutto questo nasce, dicevamo, dall'esperienza della gratuità, dall'esperienza della grazia. Paolo grida la buona notizia, che può non notificare a tutti e dovunque, sulla spinta di quel gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quello che è interessante è che il primo ad essere plasmato da questa buona notizia è proprio lui, e viene plasmato da questa buona notizia grazie ai successi e ai fallimenti che la buona notizia genera, che il Vangelo genera. Quindi Paolo, prima di essere banditore, declamatore della buona notizia, è colui che se ne lascia in qualche modo plasmare. Ed è questo che lo tiene sempre in cammino e lo porta, dopo un altro fallimento, a non arrestare la sua marcia, ma a continuare passando da Atene a Corinto. E vedremo la prossima volta Corinto, e non è una città più facile rispetto a quella di Atene, anzi è una città che rivelerà ulteriori complessità fino ad essere una delle comunità più snervanti con cui Paolo ha avuto a che fare. Bene, cari ascoltatori, con questa riflessione ho cercato di condividere alcuni pensieri, alcuni spunti sulla base del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli. Ora, come sempre, la nostra riflessione cede la parola a voi per le vostre domande, per i vostri interventi, possibilmente brevi e attinenti al tema che abbiamo trattato, in modo da continuare insieme a riflettere su questo brano. E fin d'ora vi ringrazio del vostro ascolto e della vostra partecipazione alla nostra riflessione. Buonasera, con chi parlo? Buonasera, sono Maria da Messina. Grazie padre, le sue catechesi sono sempre bellissime. E questa sera le volevo porre due cose che lei ha detto e mi hanno colpita. La prima è una considerazione personale, perché quando lei parlava che a Tarso sono rimasti la porta, il pozzo e la strada, mi ha fatto pensare quando Gesù paragona se stesso alla sorgente, quando incontra la donna samaritana, gli dice che lui è l'acqua viva che spegne, insomma, se chi beve di lui non avrà più nessuna sete, e lui è la porta attraverso cui si arriva al Padre, e lui è la via che porta alla vita eterna. E questo è molto bello, mi ha fatto pensare a queste tre cose. Poi una cosa che comunque su San Paolo, riguardante proprio la catechesi di stasera, ecco, San Paolo, penso, io credo, come lei ci ha spiegato, ha avuto una grande apertura di mente e di cuore nel non escludere nessuno dalla sua predicazione e ha avuto una grande, non solo spirito di osservazione, ma anche umiltà nel pensare che anche quelli che erano proprio più lontani, che sembravano più impossibili da convertire, potevano trovare salvezza dalle sue parole. E invece noi oggi pensiamo a tante persone che magari ci sono accanto, sono diverse, fanno una vita diversa da noi, pensiamo che potrebbero essere, anzi già quasi quasi li condanniamo. Io mi metto personalmente nel mezzo che tante volte parlando con qualcuno sento esprimere giudizi per dire no, quella persona è troppo lontana da Dio, ma con quello la grazia di Dio non c'è niente da fare, e fanno una vita troppo lontana dal Signore, ecco. E quindi già precludiamo la strada, non ci proviamo nemmeno, quando invece forse la grazia di Dio potrebbe agire se noi solo facciamo un piccolo passo. In fondo noi non siamo migliori, anche noi abbiamo avuto i nostri peggiori momenti, il Signore ci ha dato la grazia di portarci sulla via della fede, perciò non è merito nostro. Grazie di cuore Maria per questa tua riflessione e condivisione. Non c'è molto da aggiungere, nel senso che le tue parole si sono espresse in modo molto chiaro, molto lineare, molto bello l'associazione delle tre immagini, no? Il pozzo, la porta e la strada a Gesù stesso. Ed è dove il Signore conduce pian piano Paolo, no? A partire da quegli elementi che lui attinge prima dall'ebraismo, poi si traducono nella sua vita passando per Cristo, che è veramente la sorgente d'acqua viva, che è la porta delle pecore, che è la via che conduce al Padre. Quindi molto bella questa associazione. E poi il secondo aspetto, la seconda sottolineatura. Sì, Paolo è passato da una visione esclusiva della fede, perché il mondo, come dire, farisaico, nel senso buono del termine, i farisei erano talmente radicati nella Torah che facevano dell'identità, dell'osservanza della legge, l'elemento di separazione. Il termine stesso fariseo significa separato, per cui c'era una sorta di separazione dal mondo, no? Il fatto di essere raggiunto gratuitamente, proprio mentre stava perseguitando coloro che non la pensavano come lui, quindi visione molto esclusiva, Paolo capisce che Dio non è uno che esclude, ma uno che cerca e include l'altro. Ecco allora il passaggio che si manifesta all'interno stesso di Paolo di voler raggiungere il più possibile quelli che sono lontani, come in fondo era lui. E notiamo che Paolo nel suo annuncio veramente dà un'attenzione ai lontani, lontani sotto ogni punto di vista, da chi è pagano, quindi nel peccato per il concetto pagano del termine, a chi è impuro, a chi è nella scala sociale più bassa. Tra molti credenti di Paolo noi abbiamo diversi schiavi, c'è addirittura una lettera che è dedicata a uno di essi, ma anche i falsi fratelli all'interno della comunità. Fino alla fine Paolo non è così rigido come a volte viene dipinto. Se uno va a leggere il primo capitolo della lettera che lui scrive a Timoteo, la prima, invita qui il discepolo ad essere forte da un lato, ma a usare anche grande carità con chi ha deviato la strada e si è perso in favole inutili, cioè ha ridotto il Vangelo a una disquisizione di scuola. Lo invita a chiudere la sorgente di queste chiacchiere e riportare questi fratelli alla buona fede, ma di farlo con carità. E solo alla fine, se questo non funziona, di consegnarli nelle mani di Satana, un'espressione forte che dice di abbandonarli, tagliarli fuori dalla comunità, in modo però che si ravvedano e possano poi tornare rinnovati. Quindi un Paolo che è aperto, attento a tutti, soprattutto ai poveri e ai lontani. Grazie di cuore Maria per questo suo intervento. Pronto? Pronto, buonasera, sono Paolo dalla provincia di Varese. La Sì. ringrazio sempre per i suoi riferimenti veramente interessanti, anche l'aneddotica che mette in queste sue disquisizioni. E in particolare mi ha colpito il nome Anastasia, o ovvero che da quello che ho capito, visto che vuol dire resurrezione, credevano fosse addirittura un nome proprio e femminile, no? Addirittura la compagna di Paolo, da quello che ho capito, questo particolare che ho colto. Ma io mi chiedo, io credevo che il nome Anastasia fosse appunto post-cristianesimo, ovvero dal concetto di resurrezione per i cristiani poi era stato coniato un nome ad hoc e femminile, e quindi non mi è nuovo che è precedente al cristianesimo, e già i greci usavano questo nome, se ho capito bene. Ma in ogni caso il mio interesse è sulle differenze culturali che hanno reso difficile a Paolo spiegarsi in quel contesto greco, ovvero Paolo, venendo da Tarso, quindi distante dalla Grecia, anche se probabilmente di lingua greca in quel periodo, la località appunto di Tarso, la Cilicia, come veniva percepito, ovvero un ebreo probabilmente di lingua madre non greca che parlava ad Atene, e quindi anche questo equivoco qui che credono che Anastasia fosse il nome di una compagna. Volevo capire le difficoltà di Paolo proprio a livello culturale quando si va in un altro contesto, anche attualizzandole oggigiorno, che è sempre difficile per le differenze culturali. Questo mi premeva di conoscere. Grazie mille, grazie per il tuo intervento. Effettivamente, allora, la questione del nome, ad Atene c'erano le divinità più diverse, ora non le so dire se il nome esisteva o non esisteva, probabilmente il nome non esisteva nemmeno, però Paolo parla di Gesù e di Anastasis, intendendo per Anastasis la risurrezione di Gesù, ma siccome questo concetto della risurrezione non era, era davvero fuori ogni logica di quel mondo in cui Paolo era, gli ascoltatori pensano che quella parola femminile, Anastasis, non sia la risurrezione dei morti, cioè il ritorno ad una vita totalmente rinnovata in Cristo, no? Ma pensano a una figura femminile, come se fosse non la sposa di Paolo, ma la sposa di Gesù. Ecco perché si rivolgono a lui dicendo: sembra essere uno che annuncia divinità straniere, poiché annunciava Gesù e Anastasis, poiché annunciava Gesù e Anastasia. Allora pensano che ci siano due divinità, cioè succede qualcosa di simile a quello che era successo prima con negli Atti degli Apostoli. In un altro ambiente pagano Paolo si trova a doversi confrontare con i tranelli di una cultura diversa, no? Quando scambiano lui e Barnaba per Zeus ed Hermes e portano dei tori inghirlandati per fare un sacrificio a loro, pensando che i due sono l'incarnazione di queste due divinità che sono venute ad abitare in mezzo al popolo. Siccome hanno compiuto un miracolo, siccome uno è eloquente, siccome hanno la barba, quindi c'erano le rappresentazioni simili, la cultura della persona semplice, del popolo, li confonde come incarnazione di Zeus ed Hermes. Il confronto con la cultura altra è sempre delicato, per cui uno deve essere attrezzato al mondo verso il quale si dirige, perché un modo di pensare, un modo di annunciare che può, per dire, andar bene in Italia, in un altro contesto bisogna fare attenzione, perché magari quel codice comunicativo, quella gestualità, quella sottolineatura ha bisogno di un processo di conoscenza dell'ambiente diverso. Per dire, faccio un esempio molto semplice, noi il messaggio cristiano insiste molto sul concetto di salvezza, però è un conto parlare di salvezza nel primo secolo, nella Palestina del primo secolo, che vive l'oppressione, la schiavitù, il dominio dell'impero romano, la ritorsione delle tasse, la fatica di vivere dignitosamente, cioè che vive realmente tante situazioni di cui uno vuole liberarsi, da cui uno vorrebbe riscattarsi, tornando al sogno dell'ebreo libero che è il possessore della terra promessa, un altro è parlare di salvezza oggi, nel nostro ambiente, dove uno dice sì, mi annuncio una salvezza, ma io non ho bisogno di essere salvato da nessuno, io sto bene, riesco a vivere tranquillamente, anche se anche qua non è che manchino i problemi, però cioè, salvezza di che cosa? Devo essere salvato da chi? Allora, è chiaro che il contesto culturale rende più difficile alcuni termini, alcuni concetti, così ad esempio una delle parole più corrose del vocabolario cristiano è la parola cammino. Cammino, nel primo secolo si sapeva che cos'era il cammino, si camminava continuamente, quindi oggi nel nostro ambiente cammino è una parola abusata, per cui quando uno usa questo termine manco si ascolta, per cui dire tu devi fare un cammino di credente, un percorso di fede, sono tutte parole sì che fanno parte del vocabolario cristiano, ma che rischiano di non dire più niente a nessuno, quindi c'è bisogno, come dire, di tenere presente l'ambiente, la cultura, il contesto in cui si è e provare a rideclinare, riformulare il proprio linguaggio. Paolo ad Atene ha avuto timore di affrontare il tema della passione e morte di colui che poi è risorto. Temeva di fare brutta figura e di fare un grande smacco, quindi è partito con l'elemento più forte, il tema della risurrezione, e proprio su quello ha avuto lo smacco. Chissà, forse se si presentava con il mistero pasquale nella sua globalità, chissà, magari suscitava altri interrogativi. Grazie di cuore per il suo intervento che ha posto effettivamente la domanda su una questione delicata. Grazie. Sì, pronto. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Angela, chiamo da Cagliari. Ascolti, io sono un po' vecchia e mi sono fatta sempre questa domanda. Come mai la redenzione di Cristo è così limitata alle persone? Cioè, non so se mi sto a spiegare bene, mi sembra che il sangue di Cristo ha un valore infinito, no? Quindi perché ne usufruiscono così poche persone rispetto a tutta l'umanità? Allora la ringrazio Angela per la sua domanda, non so se l'ho capita bene, la redenzione di Cristo, l'annuncio del Vangelo sono annunci universali, Oggi abbiamo sostato proprio sull'universalismo, no? Però è chiaro che c'è sempre la questione della libertà dell'uomo e quindi la libertà dell'uomo, l'uomo ha il potere di, come dire, di aprire o di chiudere la porta. Proprio in questi giorni tenevo una riflessione su i capitoli legati alla creazione, no? È stupendo quando uno riflette su il secondo racconto della creazione. Dio, dopo aver posto l'umanità nel giardino, indica i due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. All'albero della vita tutti possono accedere senza problemi, possono mangiare quel frutto. E il capitolo 3 della Genesi dice da lì si attingeva l'immortalità. Poi c'è l'albero della conoscenza del bene e del male che dice un mistero che deve essere rispettato, che non deve essere toccato, no? Ora l'uomo, è chiaro, quelli erano a disposizione di tutti, l'uomo vi può accedere, non ci sono come nell'altro, l'uomo non vi può accedere, però c'è il mistero della libertà. Quando l'uomo vuole carpire qualcosa che non è suo, si chiude a Dio perché lo vuole in qualche modo possedere e resta escluso. È interessante. Poi la punizione, Dio ostacola il cammino dell'albero della vita non per punire l'uomo, ma per tutelare l'uomo, perché l'uomo che si è reso prigioniero del male, se va a prendere l'albero della vita, quindi diventa immortale nel male, e questo non va bene, questo non è una cosa buona per lui. Cioè, quello che voglio dire è il messaggio è universale, un messaggio di bene universale, ma c'è il mistero del male che porta alla chiusura, e quando c'è la chiusura non è che Dio rompe le porte dell'uomo, sì, rompe nella nostra vita, ma lascia a noi anche la libertà, il mistero di quella libertà che dice la nostra dignità, di accoglierlo o meno. Questo nulla toglie all'efficacia del sangue di Cristo, perché fino all'ultimo istante della nostra esistenza, e oserei dire anche dopo, il sangue di Cristo è un continuo appello d'amore alla vita dell'uomo, sempre. Grazie signora Angela per la sua domanda. Pronto? Pronto, buonasera. Sono Alessandro da Roma. Sì. Dunque, volevo dire, noi ripetiamo sempre resurrezione dei morti, anche nel credo. Però nel Vangelo c'è scritto, in tutte e tre i versi dove c'è questo riferimento, la parola esatta è dai morti, non dei dai. Quindi non so come è la traduzione giusta dal greco, come è stata fatta. Quindi volevo un chiarimento su questo. Poi, sempre in riferimento a questo dei dai, o dei o dai, Gesù quando nell'episodio della risurrezione di Lazzaro, quando dice credi tu nella risurrezione dei morti, e la Maria gli dice sì, io credo, e lui la interrompe dicendo sono io la risurrezione. Quindi mi sembra che c'è un equivoco qui, potrebbe chiarirlo? Grazie. Allora, caro Alessandro, grazie della tua domanda. Prima di tutto dico subito che nel versetto 31 del capitolo 17, nell'annuncio di Paolo, Paolo dice ne dà tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti, cioè l'uomo Cristo viene risuscitato dal mondo dei morti, no? E ritrova la pienezza della vita. E anche qui va però tenuto presente che l'essenza, l'emblema del messaggio cristiano è la risurrezione in anima e corpo. E questo è l'elemento forte che è costitutivo dell'annuncio del Vangelo, costitutivo dell'annuncio cristiano. In tutti i racconti della risurrezione viene evidenziato in modo molto chiaro la corporeità, certamente trasfigurata nel mistero di Dio, di Cristo. Ecco allora le apparizioni in cui il Cristo mangia con i suoi, e le apparizioni dove Gesù si lascia toccare, invita addirittura Tommaso a mettere la mano nel suo costato, a non essere più incredulo ma credente. Un Gesù che per 40 giorni sta con i suoi insegnando, tutti elementi che sottolineano la realtà della risurrezione corporea del Signore. Ed è proprio su questo aspetto, Alessandro, che ad Atene nasce la derisione, perché se le filosofie, il mondo dei filosofi ritiene il corpo qualcosa di negativo che è prigioniero dell'anima, è ovvio che proporre una bella notizia di un Dio che risuscita i corpi è la cosa peggiore per i filosofi del tempo, perché è come far risuscitare nella loro mentalità una prigionia. In tal senso Paolo è anche l'apostolo che porta una riqualificazione totale della visione del corpo. Una rivisitazione che si attinge dalla tradizione ebraica, ma la potenzia la rende ancora più luminosa. Il corpo, per Paolo, non è il luogo delle passioni, quella è la carne, è la sarx. Il corpo, il soma, per Paolo è il luogo delle relazioni, cioè la corporeità dell'uomo è ciò che caratterizza la sua identità profonda. Noi cresciamo, la nostra vita si forma attraverso le conoscenze, certamente, le esperienze che facciamo, ma anche tutte quelle relazioni che sono assicurate dalla nostra corporeità, le relazioni con la famiglia, le relazioni con il coniuge, le relazioni con i figli, le relazioni con gli amici. Ora, tutto questo, guardate che qui c'è una luminosità di annuncio enorme, tutto questo nel messaggio cristiano viene risorto, viene risuscitato, cioè non si perde nulla di tutte le relazioni che noi viviamo. Ciò che si perde e viene trasfigurato è ciò che si perde, che viene lasciato, è ciò che è negativo, ma che appartiene non al soma, al corpo, ma alla sarx, alla carne e alle sue passioni. Il corpo è visto come qualcosa di positivo, di relazionale, che viene trasfigurato nel mistero della risurrezione. Allora, l'elemento essenziale, al di là del dai o del dei, è questo qui, è la risurrezione del corpo e dell'anima, come elemento forte. Ad Atene non hanno voluto approfondire, quindi hanno deriso Paolo, ma su quell'elemento effettivamente si innesca una delle grandi novità dell'annuncio, non solo di Paolo, ma dell'annuncio cristiano. Grazie Alessandro per il suo quesito. Sì, pronto? Pronto, buonasera, sono Gregorio dalla Calabria. Io ho seguito con un po' di difficoltà perché sono in macchina, mi scuso. Però volevo fare una considerazione e una domanda, se possibile. La considerazione è questa, che vedo che questo passo è molto attuale. Mi sembra proprio l'atteggiamento di Paolo verso gli ateniesi come il Papa Ratzinger che ha cercato di a fare appello alla razionalità dell'uomo. Ma soltanto chi è stato colpito dalla fede e dalla grazia di Dio poi è riuscito a rispondere positivamente a quell'appello. Dall'altra parte mi ricollego all'intervento che ha fatto, che mi è piaciuto tantissimo, sulla differenza tra soma e sarx. Ma il soma, cioè il corpo, quindi lo dobbiamo intendere come persona o sbaglio? Cioè la persona in quanto tale che risorge. Grazie, la seguo per radio. Grazie mille Gregorio per il duplice intervento. Certamente uno delle caratteristiche del pontificato di Benedetto XVI è stato quello di riuscire a tradurre le categorie teologiche in un linguaggio teologico accessibile, lineare e molto chiaro. Che ha cercato soprattutto di unire il discorso della fede a quello della ragione. E ci deve essere una riscoperta di tanti suoi interventi, tanti suoi scritti in merito, che hanno una linearità davvero unica e esemplare. In merito alla seconda domanda rispondo di sì, dobbiamo intendere la risurrezione del corpo come il discorso della risurrezione della persona. L'importante, ecco, è non perdere la concretezza della nostra persona, che si trasmette anche attraverso la nostra corporeità, come luogo delle relazioni, come luogo del nostro lasciarci plasmare dalle esperienze che facciamo. Però la risposta è sì. Grazie Gregorio per le tue domande. Pronto? Sono Valeria Vezzali, telefono da Vignola Modena. Buonasera. Buonasera Valeria, mi dica. Io volevo semplicemente ringraziarla per questa lezione così bella, così profonda, perché mi ha dato proprio tanto entusiasmo e tanta carica. Sono catechista, parlerò con i ragazzi mercoledì, loro riceveranno il sacramento della cresima a giugno, stiamo parlando di San Paolo e approfondirò ancora di più grazie anche alle sue parole. Proprio buona serata e mi si è allargato il cuore, di nuovo. Grazie Valeria per questa tua testimonianza, allora noi ne approfittiamo per accompagnare tutti i tuoi ragazzi che celebreranno la loro cresima, li affidiamo allo Spirito Santo perché li riempia di sapienza. Ovviamente per un paolino, io sono paolino, sentirmi dire che in qualche modo ho reso più luminosa la figura del mio padre, cioè di San Paolo, è motivo di gioia. Ecco, spero che la gioia, ecco, ce l'abbia anche lui, perché sicuramente la passione che aveva questo grande apostolo è sempre un po', come dire, difficile da comunicare, perché lui era un cuore solo con Cristo, no? Il cuore di Paolo era il cuore di Cristo. Noi cerchiamo di leggere tra le righe e far emergere la sua esperienza tra queste righe, e chissà quante sfumature importanti di Paolo ci sfuggono. Grazie comunque per il suo feedback e la sua riconoscenza. Pronto? Padre, buonasera. Allora, io volevo chiederle una spiegazione circa il significato di quello che dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, credo sia la prima. L'uomo spirituale giudica ogni cosa. Non vorrei sbagliarmi che non fosse San Paolo a dirlo. E poi, dappertutto nelle omelie si sente non giudicate, non giudicate, e ci si ferma là. Allora, io mi domando, vogliamo chiarire questo concetto di non giudicare, che cosa significa? Allora la ringrazio della sua domanda, sicuramente lei ha evocato un passaggio di San Paolo, adesso non è, mi sembra sia proprio nella lettera ai Corinzi, però non è che conosco a memoria tutti i passi, però è di San Paolo. Il brano che lei ha citato ha a che fare con il termine del discernimento, non tanto il giudizio negativo su una cosa o sull'altra, cioè l'uomo che è guidato dallo Spirito di Dio ha un discernimento autentico delle cose, sa fare le scelte giuste, tradotto in termini molto semplici. Ecco, noi sappiamo che nella nostra vita una delle cose più difficili è il discernimento. È il discernimento. A volte tra due beni cosa uno può scegliere? Se si tratta di scegliere tra il bene e il male, il discernimento è facile, ma tra due beni, oppure se uno non ha altra possibilità se non davanti a sé due cose molto dolorose, quale è quella che deve abbracciare, quale è la via che deve percorrere, che cosa è, tra virgolette, giusto? Ecco, Paolo dice, voi preoccupatevi di avere lo Spirito di Dio in voi, se avete lo Spirito di Dio riuscirete a fare discernimento, riuscirete a capire da dove viene quella cosa, dove porta quella cosa e quali sono i mezzi giusti per portarla avanti secondo Dio. Altra cosa invece è il discorso del giudizio sull'altra persona. Il giudizio è qualcosa di diverso dal discernimento. Il giudizio è quando è qualcosa che soffoca l'altro, ovviamente è negativo, è un'etichetta che io gli metto addosso, una cornice, un vestito che gli appioppo e da quel vestito non ne esce più. Il giudizio invece di Dio è sempre un giudizio che porta a salvezza, quindi nel momento in cui noi siamo invitati a non giudicare, siamo invitati in qualche modo a non rendere prigioniero l'altro, prigioniero del nostro modo di vedere, delle nostre visioni distorte della sua persona, ma di avere sempre una visione integrale dell'altro che tiene conto che lui è figlio di Dio. Quindi queste sono le indicazioni che sento di dare alla nostra ascoltatrice. Grazie anche a lei per il suo intervento. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato, vorrei ringraziare quanti sono intervenuti: Maria da Messina, Alessandro da Varese, Angela da Cagliari, Alessandro da Roma, Gregorio dalla Calabria e Valeria da Modena, come pure anche l'ultima nostra ascoltatrice. Come avete visto, le vostre domande sono state preziose per cogliere ulteriori aspetti dell'Apostolo Paolo, no? Che ci hanno aiutato a coglierne ancora di più l'universalismo. La puntata di oggi ha messo in evidenza quei tre luoghi simbolo di Tarso, il pozzo, la porta, la strada. Ecco, chiediamo allo Spirito guidati da Paolo di cogliere in Cristo la sorgente d'acqua viva, in Cristo la porta delle pecore, in Cristo la via che conduce al Padre. E così saremo anche noi missionari come lui, persone che si lasciano spingere dall'amore per Cristo. Grazie a tutti voi e che la benedizione di Dio vi accompagni nel vostro percorso quotidiano. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.